che nelle prossime settimane, la settimana prossima ci sarà la Cassazione per quanto riguarda il processo Diaz e poi il 13 luglio prossimo invece la Cassazione per quanto riguarda 10 ragazze e ragazzi imputati di devastazione e saccheggio. Parla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Siamo qui in compagnia dell'avvocato Francesco Romeo, che noi salutiamo. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo innanzitutto, salutiamo Francesco. Ci troviamo, insomma, dopo 11 anni a dover continuare a parlare di Genova, di Genova 2001. Due sono, insomma, gli appuntamenti grossi che ci saranno da qua al prossimo mese. Uno inizia la settimana prossima, da lunedì prossimo c'è la Cassazione per quanto riguarda il processo contro contro alcuni poliziotti accusati, insomma, di, poi ce lo racconterete quali sono i capi di imputazione, comunque per quanto riguarda l'irruzione alla Diaz. E poi il 13 luglio prossimo invece andremo, si dovrà discutere la Cassazione per quanto riguarda il reato di devastazione e saccheggio, quindi l'accusa nei confronti di 10 compagni e compagne che da Genova ad oggi, dopo 11 anni, su di loro gravano 100 anni di carcere. Quindi stiamo parlando di persone, le uniche persone poi che stanno in questo momento pagando o comunque pagheranno per quanto riguarda tutta la vicenda politica del G8 di Genova del 2001, con appunto pene che vanno da un minimo di 6 anni e 6 mesi ad un massimo di 15 anni per 10 imputati. Allora, noi con Francesco volevamo innanzitutto iniziare a parlare un po' come di quello che sarà il processo della settimana prossima, visto che si apre lunedì, e se ci racconti un po' come si arriva a questa Cassazione e cosa succederà poi la settimana prossima. Dunque, di nuovo buongiorno. Allora, la prossima settimana, lunedì, inizierà il processo in Cassazione per i fatti della scuola Diaz, che durerà tutta la settimana. Si concluderà, è già previsto un calendario di udienze dal giorno 11 al giorno 15, praticamente tutti i giorni. Questa sentenza sarà la sentenza che metterà la parola fine sulla vicenda vergognosa della scuola Diaz. Si arriva a questa Cassazione con due sentenze precedenti di Genova, una del Tribunale e una della Corte d'Appello, di segno diverso, nel senso che la sentenza di primo grado del Tribunale aveva condannato soltanto gli appartenenti al reparto mobile, al settimo nucleo del reparto mobile, vale a dire, tra virgolette, i cosiddetti picchiatori, i celerini, insomma, e i loro comandanti, Canterini e Furnia, mentre erano andati assolti tutti gli altri imputati. Bisogna dire che dentro la Diaz entrarono circa 350 poliziotti di diversi reparti. Non c'è stata la possibilità di identificarli tutti per la assoluta mancanza di collaborazione da parte della polizia. Sicché l'accusa ha scelto di individuare i responsabili, quelli che secondo l'accusa erano responsabili, e ha imputato appunto tutti coloro che avevano, oltre a quelli del settimo, i comandanti del settimo, i capisquadra del settimo reparto mobile, il settimo nucleo del reparto mobile, tutti coloro che avevano firmato i verbali di arresto, di perquisizione e sequestro, e in più Luperi e Gratteri, che sul campo comandavano le operazioni. In primo grado vennero dunque assolti tutti coloro che firmarono i verbali di perquisizione e sequestro e i verbali di arresto, nonché i signori Luperi e Gratteri. La sentenza di secondo grado ha rovesciato questa decisione del Tribunale e la Corte d'Appello ha condannato tutti i firmatari dei verbali e anche Gratteri e Luperi. L'unico che è stato assolto da tutte le accuse è stato Burgio, l'imputato Burgio, che era l'autista. A bordo del mezzo che lui guidava c'erano le due bottiglie Molotov che poi sono state introdotte nella scuola nella notte durante le fasi della perquisizione, tra virgolette perquisizione. Diciamo quindi, in tutto ciò mancano poi chi in realtà, insomma, tanto si è parlato della famosa assoluzione nei confronti di Gennaro, cioè le persone, diciamo, ad alto livello che poi erano a capo dell'operazione, non soltanto per quanto riguardava la gestione dell'ordine pubblico dei fatti durante i giorni del G8, ma anche per l'irruzione alla scuola Diaz. Alto livello, che cosa intendiamo? È il capo della polizia, in quel caso. Ovviamente abbiamo detto prima. Per non parlare, insomma, dell'apparato ministeriale. Certo, quindi il livello politico. Livello politico. Abbiamo detto prima, è un discorso un po' complesso. Abbiamo detto prima che la polizia non ha collaborato minimamente alle indagini. Anzi, addirittura si è arrivati al punto che appartenenti alla polizia hanno fatto sparire e hanno distrutto le due bottiglie Molotov nel corso del processo di primo grado. Questo per dare l'idea, oppure, tanto per fare un altro esempio, il famoso picchiatore con la coda di cavallo, appartenente alla polizia, non so, qui parlo a chi già sa, insomma, comunque dai filmati di quella notte si vede una persona con la coda di cavallo che si vede dalle finestre, che colpisce ripetutamente delle persone che stanno a terra. Questa persona fa parte della Polizia di Stato, non si è riusciti mai a poterlo individuare. La Digos di Genova ha sempre detto che era impossibile individuarlo, ma alla fine si è scoperto che era un appartenente alla Digos di Genova, non solo, ma che aveva partecipato a tutte le udienze in tribunale, e proprio per questa singolarità, per questa sua, diciamo, sfrontatezza di aver, come dire, preso parte a tutte le udienze come pubblico, come persona, come spettatore, alla fine è stato individuato. Non si potrà far nulla nei suoi confronti perché ovviamente è stato individuato in ritardo e sicuramente il suo processo si prescriverà. Però ecco, per dire, in un'assenza di, nella totale assenza di collaborazione allo sviluppo delle indagini, ovviamente era impossibile arrivare a livelli. Perché è chiaro che questa non è un'operazione che ha deciso il questore di Genova, per dire. Era impossibile arrivare, forse lavorando più avanti sui documenti, facendo la storia di Genova, che è un po' diversa dal fare i processi di Genova, si riuscirà a raggiungere qualche conclusione. De Gennaro è stato assolto, ma era un processo collaterale. Non c'è dubbio, e nel processo Diaz è stato ampiamente documentato, che il capo della polizia abbia fin dalla mattina del 21 luglio 2001 chiesto maggiore incisività negli arresti da parte della polizia che si trovava a Genova, alla polizia che si trovava a Genova. Questo è senza ombra di dubbio provato e documentato, così come non c'è dubbio che sempre il capo della polizia ha chiesto che nel pomeriggio, dopo la fine della manifestazione, venissero formati dei pattuglioni misti per cercare di, in teoria, di arrestare questi ipotetici appartenenti al blocco nero, in realtà per arrestare quante più persone possibile. Così come non c'è dubbio che sempre lo stesso capo della polizia era informato di cosa si andava facendo, quindi della preparazione dell'operazione e anche dopo del tra virgolette risultato dell'operazione. Questo ormai è provato senza ombra di dubbio. Allora, ricordiamo anche un po' quello che successe nel 2001, no? Perché anche tutte queste vicende processuali vanno un po' inquadrate, secondo me, in una fase storica, e spiegare un po' perché più di 300.000 persone andarono a Genova in quel luglio del 2001, dopo essere state nel marzo del 2001 a Napoli. C'erano delle politiche, insomma, si stava attuando sempre di più, erano gli anni dei vertici, dei grandi vertici internazionali, quei grandi del mondo sotto il Fondo Monetario Internazionale piuttosto la Banca Mondiale, e stavano decidendo quelle che sono poi le politiche che in qualche maniera fallimentari che ci hanno portato oggi, diciamo così, a questa crisi ormai strutturale. Ovviamente in tutto il mondo si andava, a cominciare da Seattle nel 99, si andava a protestare contro queste politiche. Il popolo, diciamo, la popolazione intera, i movimenti, a cominciare soprattutto da quelli del sud del mondo, perché mi ricordo, insomma, anche soprattutto a Genova vennero tante rappresentanti, mi ricordo per esempio dell'India piuttosto che del Sud America, mi ricordo gli agricoltori di Beauvais, insomma, c'erano diverse realtà che appunto avevano un'altra visione del mondo e che giustamente cercavano di contrastare quella che poi ci è stata imposta. Quindi si è arrivati a Genova, in una città che già aveva, era stata più o meno deciso come doveva rispondere a tutta questa, a questi movimenti, a questa ribellione, a questa voler anche andare contro questa zona rossa che era stata decisa, per cui Genova era stata blindata, erano state messe delle inferriate. Queste immagini poi alla fine di questa Genova non sono più passate in questi 11 anni. In questi 11 anni abbiamo visto le botte e l'incendio delle camionette, Carlo Giuliani, giustamente, però diciamo tutta una costruzione che c'è stata, una rimappatura della città, per cui le inferriate, furono messi dei muri di inferriate, gli stessi abitanti di Genova per poter passare dovevano dare la carta d'identità con la residenza, e furono insomma le zone dove si riunivano i grandi, ovviamente ci fu una militarizzazione allucinante. Quindi diciamo in questo forse un concetto di premeditazione su quello che fu poi un ordine di gestione di piazza. Io mi ricordo la prima manifestazione che è stata fatta, quella dei migranti, e va bene, la seconda manifestazione, quella insomma un po' più grande, quella del 20 luglio, 5 minuti dopo dell'inizio anche del concentramento, già c'erano addirittura degli infermieri che erano stati picchiati dalle forze dell'ordine, cioè le prime persone che in qualche maniera le forze dell'ordine hanno cercato di allontanare e di e ci sono le testimonianze, insomma in radio ne abbiamo parlato, sono venuti anche tutti quelli che hanno partecipato a Genova eccetera, sono stati i primi ad essere allontanati, proprio perché non dovevano in qualche modo guardare o testimoniare quelle che poi sono state le violenze di piazza. Quindi direi che in qualche maniera insomma tutta in parte questo è uscito fuori, ovvio che le verità poi insomma giuridicamente non escono mai fuori, in parte forse possono essere uscite fuori per quanto riguarda la carica dei carabinieri a Via Tolemaide, e quindi in qualche maniera anche lì ci sono state poi delle assoluzioni su quelli che insomma racconto questo perché arriviamo anche a raccontare quello che è un processo che a noi come radio ci preme anche di più, non lo dovrei dire questa cosa però insomma visto che ci sono delle compagne e compagni nostri imputati di un reato che è quello di devastazione e saccheggio su per appunto i fatti del Genova 2001. E quindi un po' volevamo parlare, insomma, qui pure insomma, Antonella si ti va di intervenire, quello che è stato, cosa vuol dire il reato di devastazione e saccheggio per quanto riguarda il luglio 2001, quello che è poi il reato di devastazione e saccheggio che in questi anni più o meno è stato dato, o sta cercando di essere dato, quindi un reato del tutto politico, nato dal codice Rocco, dal regime fascista, in cui chi si opponeva alla dittatura a cui insomma veniva dato questo reato, o so che altri è stato dato anche perché motivi di sciacallaggio, cosiddetto sciacallaggio, e quindi insomma un reato tutto politico che vede in questa negli imputati anche una compartecipazione psichica, quindi non soltanto non si viene condannati insomma a Genova per mentre per i poliziotti diciamo i capi di imputazione sono sempre sui fatti singoli, appunto non c'è non ci sono stati dei processi politici in cui l'ordine pubblico, la gestione dell'ordine pubblico piuttosto che la premeditazione, piuttosto che non è stata minimamente messa in discussione, mentre per quanto riguarda i manifestanti sono state date delle condanne o si cerca di dare delle condanne del tutto politiche, visto che si sta cercando di dare appunto un reato che non prevede la condanna per il fatto singolo ma bensì anche appunto per quello di stare lì, per aver guardato, per esserci stato, per non... Raccontacelo insomma un po' te, visto che... Volevo solo aggiungere una cosa, che al quadro appunto di militarizzazione poi della città che tu hai dato, che come se non bastasse le inferriate, la zona rossa eccetera, la mattina di sabato abbiamo avuto la sorpresa di trovare una lunghissima fila di container che erano stati posizionati proprio a restringere le possibilità di movimento a Genova, e siccome la verità che noi cerchiamo ovviamente è quella politica, bisogna anche affermare con decisione, alla luce pure di quello che è successo non solo a Genova ma prima e dopo, che l'epilogo, se lo vogliamo chiamare così, almeno di quelle giornate era già stato ampiamente è deciso, non ci sono blocchi neri presunti tali che tengano, la scelta era stata fatta e poi portata avanti, quella di bloccare qualsiasi tipo di dissenso. Le prove generali c'erano state del resto a Napoli a marzo, e quindi anche un tipo di gestione della piazza che era quella di bloccare assolutamente qualsiasi movimento di qualsiasi tipo di manifestazione o di iniziativa, con un appunto un'inedita per certi versi, ripeto, gestione della piazza, che era quella di non permettere nemmeno vie di fuga, ma di assolutamente terrorizzare e arrestare più gente possibile, come poi è stato fatto a Napoli, come in scala più piccola, ma non come, diciamo, violenza, e poi ovviamente a Genova. Sì, intanto usciamo un attimo dallo stretto discorso giuridico per dire che effettivamente a Napoli ci sono Piazza Plebiscito e la caserma Raniero, costituiscono, come dire, l'antecedente storico di quello che poi accadrà a Genova. Siamo a marzo, di quello che poi accadrà a Genova nel luglio del 2001. Addirittura, credo di non ricordare male, anche per i fatti di Napoli ci sono state delle condanne nei confronti di appartenenti alla polizia. Mi pare che almeno una persona che è stata condannata sia per i fatti di Napoli che per la Diaz. Quindi, come dire, c'è anche l'identità dei soggetti del reato. No, nel senso che erano gli stessi soggetti addestrati, diciamo, a questo tipo di gestione dell'ordine pubblico. Questo tipo di gestione dell'ordine pubblico, alla quale si comincia a lavorare già dalla fine dell'anno 2000, dal punto di vista amministrativo, si introduce tra la dotazione della polizia il manganello tonfa, e, come dire, si costituisce questo nucleo speciale del reparto Celere, il settimo nucleo al comando di Canterini, che tra virgolette si allena per mesi e mesi a Ponte Galeria. Ricordiamolo, che poi sì, luoghi anche a Ponte Galeria. Si allena per mesi e mesi alle dinamiche di quello che secondo loro si sarebbe dovuto trovare a Genova in piazza. Non solo, diamo un dettaglio di colore, perché pure vengono addirittura due sceriffi da Los Angeles per dare istruzione su come si usa, siccome si deve usare questo manganello, perché è un manganello pericolosissimo, per evitare che vengano poi fatti dei disastri. Ma evidentemente questo addestramento anche da parte di questi sceriffi los angelini evidentemente ha portato invece, perché si approva e è documentato, che quest'arma micidiale è stata usata proprio nel modo in cui non doveva essere usata, cioè è stata usata al contrario e ha causato lesioni maggiori e più gravi di quelle per le quali è destinato funzionalmente. Dunque, detto questo, c'è un modello di ordine pubblico che si costruisce tra dicembre 2000 e marzo 2001, che è il momento in cui debutta, e poi raggiunge, diciamo, il suo azimut a Genova nel luglio del 2001. Questo senza ombra di dubbio, perché è una ricostruzione lineare, pacifica, documentale. Mi sono un po' perso, eravamo al reato, giusto, al processo, sì, di devastazione. Sì. Per quanto riguarda il processo di devastazione, bisogna dire che in realtà noi qui dobbiamo, proprio per fare un ragionamento intanto fuori dal giuridico, in questo momento voglio, per far capire alle persone anche che ci ascoltano, di che cosa stiamo ragionando. Dunque, noi abbiamo a breve distanza di tempo la decisione su due processi di cui abbiamo già detto. Da un lato ci sono persone straziate, persone brutalizzate a freddo senza motivo, e che hanno subito dei danni sui loro corpi e sulle loro menti, inevitabilmente, perché non è che credo che possa essere messo in discussione o comunque negato che delle ripercussioni ci possano essere state, danni anche gravi. C'è stato chi è rimasto in coma, per fare un esempio, una ragazza, mi pare, e faccio un esempio senza fare il nome, ma una ragazza tedesca non potrà più camminare correttamente, né potrà più muovere avrà più l'articolarità lineare del collo e del braccio, e questo per tutta la vita, insomma. Stiamo parlando dei 93 che stavano dentro la dieta. Sì, sì. E quindi, diciamo, da una parte c'è stato un processo per questo scempio, per questa carneficina, diciamo così, la cui pena massima è stata quella di 5 anni di reclusione. Dall'altra parte sono state portate a giudizio prima 25 persone, adesso ne sono rimaste 10, per dei danni causati a degli oggetti, alle fioriere per strada, alle vetrine dei bancomat. E in questo caso la pena massima è stata di 15 anni di reclusione. Ora, non è che uno deve fare, come dire, questa constatazione non serve a chiedere occhio per occhio, dente per dente, ma giusto per far capire come la giustizia a volte sembra schizofrenica o assolutamente strabica, la giustizia penale, perché siamo di fronte al paradosso per cui un oggetto, un bene inanimato, una cosa, il danno a una cosa, a un immobile, a un supermercato, a quello che vogliamo, per quanto grave possa essere questo danno, sempre il supermercato uno, non stiamo parlando di tutti i supermercati di Genova, ecco, diventa un paradosso, ma un paradosso forte, che chi ha partecipato, ancora non è da vedere se abbia partecipato o abbia soltanto assistito a quello che è successo in questi danneggiamenti, debba scontare in carcere, questo sì, una lunga pena detentiva, rispetto a coloro che di fatto hanno ricreato tra Bolzaneto e Diaz dei piccoli campi di concentramento temporanei in cui le persone sono state ridotte a livello di cosa? Persone senza più dignità, senza più umanità, ridotte a livello di cosa da prendere a calcio o su cui infierire, debbano poi, come dire, non avere nessuna conseguenza pratica, perché la condanna a 5 anni, che è il massimo di cui stiamo discutendo, chi la ha riportata non entrerà mai in carcere. Ecco, questo è un paradosso, secondo me, dal mio punto di vista personale, su cui bisognerà un po' riflettere, un po' far comprendere alle persone che appunto siamo di fronte a una giustizia che forse mostra qui il suo vero volto di, come dire, di agente, avremmo detto una volta, del capitale. Infatti questo mi veniva da dire, no? Proprio il tuo ragionamento, nel senso, è un po' la conclusione di quelle che sono state le regole dettate a Genova del 2001, per cui il capitalismo, il capitale sulle persone, la vita delle persone, le cose prevalgono sulle persone. Questo è un dato di fatto, e quindi ecco, il reato di devastazione e saccheggio ha poi una sua storia particolare all'interno dell'Italia repubblicana, perché noi abbiamo un po', per dirla anche qui semplicemente, l'Italia repubblicana ovviamente aveva tra le sue cose da fare sostituire interamente, oltre che il personale del regime fascista, cosa che non fu fatta, ad esempio i ruoli della polizia rimasero uguali, tanto per fare un esempio, diciamo, che ci riguarda, ma aveva tra i suoi compiti importantissimi e soprattutto urgentissimi quello di sostituire tutta la legislazione fascista. Di fatto si fece il contrario per quanto riguarda il penale, l'ambito della giurisdizione penale. Invece di sostituire il codice dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si disse, vabbè, per dirla, ci sono libri e libri su questo, però facciamo l'esempio, si disse, vabbè, teniamo questo codice, poi di volta in volta la Corte Costituzionale dirà se va bene o non va bene questa o quella norma. Il risultato è che alla fine si è capovolto il ragionamento e noi siamo arrivati alla data attuale, non solo con questo reato, ma con molte altre fattispecie e ipotesi che sono chiaramente ancora, come dire, ferme a quella impostazione. E sicuramente lo è questo reato di devastazione e saccheggio, perché la norma è assolutamente generica, non dice di preciso cosa sia questa devastazione e questo saccheggio, come invece richiede la Costituzione. Cioè la nostra Costituzione richiede che per essere condannati si debba essere imputati e poi condannati per condotte precise, ben descritte, ben delineate. E qui siamo nel generico più assoluto. Tant'è vero che questo benedetto reato a un certo punto ha cominciato a essere utilizzato per i fatti da stadio. E già, come dire, c'è stato nel corso del tempo uno slittamento semantico, uno slittamento di significato di questo, di questi termini, devastazione e saccheggio, per cui noi ora, anche nel, come dire, nel conversare comune, la devastazione assume e diventa un qualcosa di molto più circoscritto rispetto a quello che dovrebbe essere, perché la devastazione significa rendere deserto qualcosa. Questa, se noi andando a risalire all'origine del termine, alla genealogia, direbbero i filosofi contemporanei del concetto. Per cui adesso devastazione può diventare tutto, dalla distruzione della gradinata dello stadio al paradosso cui si è arrivati recentemente nel caso, in uno stralcio di quanto è successo dopo la morte di Gabriele Sandri, per cui si è ritenuto devastazione anche il semplice danneggiamento dell'insegna 113 di un commissariato di polizia qui a Roma, perché si è detto sì, è vero, il danno è piccolissimo, però... e poi hanno rotto a qualche vetro di qualche macchina e qualche motorino, però c'era la polizia, il potenziale pericolo che... Ma il problema è che il diritto penale non lavora sulla categoria del potenziale pericolo, ma dei danni oggettivi, perché sennò diversamente qualunque reato può diventare, si può espandere all'infinito. Calcolando che per Genova è stata data anche la compartecipazione psichica, cioè sì. Nel senso che questo reato prevede che non soltanto non si capisce bene cosa vuol dire devastazione e cosa vuol dire saccheggio, ma per di più prevede la compartecipazione psichica, che noi pensavamo che... No, questo però in tutti i reati è previsto, per tutti i reati si può essere condannati per concorso morale, cioè che sarebbe anche questa una cosa inafferrabile se noi ragioniamo in termini di categorie concettuali concrete, perché il concorso morale è previsto dal nostro sistema penale per colui o coloro che ti convincono a fare qualcosa, a fare un reato. E se noi, come dire, facciamo un attimo una pausa su questo aspetto e la trasponiamo con quanto accaduto a Genova, dove sono state condannate delle persone perché erano presenti sul luogo. Ora, il punto è che chi stava facendo quello che stava facendo se ne fregava di chi stava lì presente a guardare. Non è che chi stava lì presente a guardare ha, come dire, ha convinto quell'altro, ha detto senti scusa per favore mi rompi quel banco, ma no, non è andata così, ecco. Quindi o chi convince qualcuno a commettere un reato o chi rafforza l'idea di qualcuno a commettere un reato. Come dire, io sono indeciso, non so se rubo quella bottiglietta di minerale o quel prosciutto, chi mi sta vicino mi dice ma no, prenditi il prosciutto che è meglio. Ecco questo. Però nemmeno questo è poi così facilmente dimostrabile. Cioè né l'istigazione, convincere a commettere il reato, né il rafforzamento risultano di facile dimostrazione in un processo, perché se il processo è basato su una fotografia, faccio un esempio, in cui c'è una persona che prende le cose dallo scaffale e una persona che sta lì accanto, ovviamente da che cosa si può non c'è un passaggio in cui si può dimostrare che quella persona che sta lì ha convinto quell'altro. Eppure alcune posizioni di quelli che sono stati condannati hanno, per il reato di devastazione a Genova, hanno questa singolarità. Ti faccio una domanda un po' così tra il politico e il giuridico, a parte vabbè, poi mi piacerebbe più o meno capire se perché insomma la giurisdizione continua a dare questo reato, e la risposta, vedendo anche come lo stanno dando, perché mi sembra che anche per il 14 dicembre alla fine siano arrivate delle richieste di questo genere, penso all'11 marzo, al processo a Milano, e quindi insomma una decisione del tutto, appunto, anche come hai detto tu, del tutto politica, quella di dare o meno questo reato. Su Genova ovviamente si parla di Capri espiatori. A questo punto, di fronte a quello che è successo a Genova, o di capro espiatorio, perché è solo singolo, no, sì, so, di fronte a quello, di fronte a quello che è accaduto, a, alla violenza esibita per strada, intanto, no? Perché non è che noi abbiamo avuto soltanto Diaz e Bolzaneto, c'è stata una violenza impiegata per strada da parte delle forze dell'ordine. Sono stati scritti anche dei libri, insomma, diciamo, sulla gestione dell'ordine pubblico proprio a, su Genova, da anche esatto. È mostruosa. Ecco, di fronte a questo dispiegamento di violenza davvero in termini quasi, forse nemmeno quasi, ma militari o da operazione paramilitare, diciamo, ecco, si staglia questo gruppetto di persone di 10 allora ragazzi, oggi diciamo di uomini e donne che hanno avuto la loro vita in questo lungo periodo, si staglia questo gruppetto di persone che pagherà, rischia di pagare il conto più salato di questa vicenda storica, senza aver ad esempio, come dire, partecipato a torture o quant'altro. Calcolando, insomma, io cerco sempre di ricordarlo, l'abbiamo già fatto, la, poi anche la giustizia delle parole d'ordine che i movimenti portarono in piazza nel 2001, oggi più che mai, insomma, che si sono attuati, insomma, tutta la crisi e via dicendo. Mi chiedevo se, insomma, in questi 11 anni si è parlato tanto di Diaz Bolzaneto, si è parlato poco di questo reato e si è parlato poco di queste persone. E da 25 si è arrivati a 10, sì. Perché appunto alcune persone non gli è stato riconosciuto, cioè gli sono state riconosciuta la legittimità della difesa. Una semplificazione pure qui: per 15 dei 25, perché il processo originariamente era contro i 25, per 15 persone tutte impegnate esclusivamente nella zona di Genova dove avvenne la carica violentissima e ingiustificata del reparto Alfa dei Carabinieri contro il corteo delle tute bianche, originariamente anche questi ragazzi, queste persone erano imputate di devastazione e saccheggio. La ricostruzione dei fatti operata dal tribunale accertò che intanto la carica era illegittima, non c'era motivo che venisse ordinata, fu violentissima, e che le persone che facevano parte di quel corteo reagirono per difendersi. Quindi è stata riconosciuta la difesa di fronte a un'azione illegittima della polizia e dei carabinieri in quel caso. Questa difesa venne riconosciuta per un periodo di tempo circoscritta. Anche questo è un po' singolare, perché onestamente nel casino che si è generato è impossibile dire: guarda, tu, il tribunale dice a questi ragazzi, dice: guarda, tu, vabbè, ti sei difeso perché sei stato attaccato ingiustamente, ma la tua difesa per l'attacco ingiusto finisce al 30° minuto. Dopo, quello che hai fatto dopo è reato, non è devastazione ma è resistenza pubblico ufficiale. Come questo testimonia anche, secondo me, un po', come dire, la distanza di chi giudica dalla vita reale, perché se tu stai preso in mezzo in una situazione di quel tipo, non è che stai a guardare, anche perché le cariche sono state ripetute, non è che stai a guardare il minuto e nemmeno ti tranquillizza il fatto che a un certo punto il reparto dei carabinieri faccia qualche passo indietro. Tu pensi che lì stai difendendo la tua vita, la tua incolumità personale. Comunque sia, e quindi, diciamo, per queste persone venne eliminato il reato di devastazione, ritenuto soltanto il reato di danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale, e questi reati si sono prescritti durante il corso del processo. Quindi diciamo che rimangono a giudicare, a guardare un po' chi sono queste 10 persone, delle persone molto singole. c'è molto sole tra virgolette, nel senso che tutti quelli poi nel senso che tutti quelli poi appartenenti a strutture politiche, quelli appartenenti a realtà organizzate, alla fine da Genova non hanno ricevuto, insomma, non rientrano in questi. Dico questo perché sempre di più mi sembra, anche vedendo le condanne che ci sono state il 15 ottobre piuttosto che il 14 dicembre, questa scelta. 14 dicembre ancora mi pare. No, però diciamo che ci sono state già delle condanne per il 14 dicembre. Una sola piccola, qualche però mese, anche lì tutti i processi sono ancora in discussione. Però anche chi è stato, diciamo così, si è chiuso bene. Allora rimaniamo al 15 ottobre, anche perché il 14 dicembre forse c'è anche una struttura diversa e via dicendo. Comunque, in linea di massima, posso così vedere, o rimaniamo anche semplicemente a Genova, insomma, persone prese singolarmente che in qualche maniera avrebbero potuto anche politicamente avere, secondo me, un meno sostegno, che poi è quello, secondo me, che un po' fa anche, tra virgolette, la giurisprudenza, visto che stiamo parlando di comunque reati che vengono dati in maniera politica. Quindi scegliere le persone un po' più singole, un po' più sole, un po' più che non hanno avuto in questi 10 anni, perché di queste 10 persone poi non se ne è quasi più parlato, anche nel momento in cui l'appello ha addirittura aumentato le pene, sì. Insomma, lì ci sarebbe dovuta essere una certa risposta, diciamocelo. Quindi oggettivamente, insomma, questa scelta mi sembra molto politica, cioè chiudere Genova, anche perché poi questa passerà alla storia, il reato, cioè far passare anche un reato attraverso due, insomma, hanno due vittorie tra virgolette, quella di far passare un reato per queste questioni politiche, per cui basta che io partecipo a una, tra virgolette, a una manifestazione dove ci saranno dei tumulti e lì posso rischiare 15 anni, e dall'altra il fatto che Genova si chiuderà, Genova del 2001 si chiuderà con un giudizio del tutto politico, per cui il, diciamo così, i grandi del mondo avevano ragione, l'ordine pubblico andava, c'erano dei cattivi, per cui la repressione era giusta così, e la chiudiamo dopo 11 anni in questa maniera. Onestamente, anche se alla fine tutto dovesse rimanere così, chi guarderà tra qualche anno a questa situazione non potrà che notare, appunto, che chi è stato portato per giudizio, a giudizio per violenza sulle cose, ha avuto una pena che è il triplo di colui che è stato portato a giudizio e condannato per aver martirizzato delle persone. Questo alla fine è quello che rimane, quello che colpirà di più, se le cose dovessero finire così. Allora, quindi il 13 luglio inizierà questa Cassazione, sì. Inizia il 13, che è un venerdì però. E finisce il 13. Al momento non c'è un'indicazione diversa. Allora, diciamo che a Roma in queste settimane, in quest'ultimo mese, si è visto, insomma, si sta cercando di portare avanti una campagna, è stato fatto anche un appello per sostenere, insomma, queste 10 persone, perché innanzitutto come forma, diciamo così, di visibilità, cioè far riuscire alla luce il fatto che tra un mese, oltre a un processo della DIES, ci sta anche un processo nei confronti di 10 compagni e compagni, perché nessuno lo sa. Molte volte neanche all'interno degli stessi centri sociali, all'interno dello stesso movimento, si sa che Genova sta per concludersi così. Quindi insomma, la radio già ha cominciato a parlarne, continuerà a farlo, un appuntamento è stato oggi, il prossimo sarà mercoledì prossimo, poi ne parleremo, per appunto riportare alla luce questo processo e questa Cassazione, ma soprattutto per costruire intorno a questo processo dei momenti di solidarietà e poi di voce politica, nel senso che far passare questo così, insomma, far finire Genova così, con questo reato e con queste persone condannate, ci sembra molto fallimentare, oltre al fatto che non ci sembra giusto che su 300.000 persone che eravamo lì, 500.000 o quanti, alla fine 10 10 persone vanno a pagare per questo, insomma, le responsabilità politiche o comunque dovrebbero essere collettive, ognuno sa quello che è successo a Genova, per cui ci sembra, insomma, allucinante che si debba concludere così. Ogni persona che sta a Genova dovrebbe prendere parola su questo e far sentire, insomma, se non la propria solidarietà, almeno la propria indignazione per questa Cassazione, e per cui verranno costruite anche una serie di iniziative. Io volevo dare anche un sito, insomma, che salirà da qua a breve, che si chiama www.10%, l'abbiamo chiamato, cioè 10 persone che rischiano 100 anni di carcere.it, perché insomma anche il peso degli anni in qualche maniera purtroppo ci sta, e in cui si troverà questo appello che poi andremo a leggere, che si può firmare, comunque che spinge tutta Italia, tutte le compagne e compagni a fare delle azioni di solidarietà, delle manifestazioni in solidarietà appunto a queste 10 compagne e compagne, senza contare insomma poi quello che verrà fatto a Roma, di cui parleremo dopo. Mercoledì prossimo però la radio pure farà un altro appuntamento. Mercoledì sera alle 8:03, alle 20:30 ci sarà un altro sguardo su Genova, un'altra angolatura, e uso questo termine proprio perché avremo in studio due dei registi e registe che nel 2001 scelsero di partire per Genova e di filmare quello che sarebbe successo, cosa che poi fecero e montarono. E fra gli altri ci saranno in studio Roberto Giannarelli e Vilma Labbate, ma fra gli altri ricordo che ci fu anche il nostro carissimo Mario Monicelli. E quindi parleremo un po' anche, dicevo, da un'altra angolatura, dall'occhio della macchina da presa, ma non solo, perché ovviamente non erano solo registi e registe, già la loro scelta l'ha testimoniato, ma compagni e compagne che hanno scelto di fare a Genova quello che sanno fare meglio, cioè riprendere, documentare e filmare, insomma. E quello fu un aspetto molto importante. Un'ultima cosa su questa Cassazione che ci sarà il 13 luglio, ovviamente siamo tutte e tutti vicini a queste compagne e compagni, e ci mancherebbe, ma con la consapevolezza anche che questa sentenza sarà una pietra miliare nell'ambito appunto di una deriva, come qualcuno ama chiamarla, ma è una deriva che viene da molto lontano, e i segnali da allora in poi ci sono stati tutti, con questa appunto determinazione a spostare nelle aule giudiziarie, cosa che è sempre successa, ma in questo caso assolutamente in maniera molto molto più pesante, qualsiasi tipo di protesta, di lotta sociale, semplicemente di dichiarazione di non voler assuefarsi a questo che è il loro ordine ormai conclamato. Nessuna opposizione, nessuno alzi la testa. Io volevo citare anche l'ultimo rinvio a giudizio, spero di non usare termini impropri, che c'è stato proprio ieri o l'altro ieri riguardo alla manifestazione che gli aquilani fecero a Roma nel 2010 per protestare contro i ritardi, quantomeno della ricostruzione nel centro storico dell'Aquila, per tacere del resto, e ci furono cariche, botte, teste spaccate. Beh, adesso sono stati incriminati tre persone, due abruzzesi e un romano, e le imputazioni sono resistenza, e quella non se la fanno mancare mai, ma anche l'intenzione o qualcosa del genere, forse mi sbaglio sul termine, ma il senso è quello di voler forzare il blocco della polizia, cioè quando tu premi un pochino, no, sul cordone per riuscire ad avvicinarti più ai centri del potere, che sono un po' l'obiettivo, poi non per devastare o saccheggiare, ma insomma per farsi sentire probabilmente meglio. Ecco, questo è l'ultima solo delle chicche che hanno sfornato, e del 15 ottobre abbiamo ovviamente già parlato. Quindi ripeto, mercoledì sera 20:30 da Radio Onda Rossa con Roberto Giannarelli e Vilma Labbate. Band is blowing Dixie. 87.9 sempre Radio Onda Rossa. Quest'oggi insomma vi teniamo a lungo perché andiamo anche a raccontare un'iniziativa che ci sarà questa sera al Centro Sociale Aure Marco a Spinaceto, in cui verrà presentato questo libro Mala Polizia. Abbiamo al telefono l'autore del libro, Adriano. Ciao. Ciao Adriano, ben arrivato. Buongiorno, ben arrivato. Allora, nel senso, noi abbiamo fatto un po' questa oretta di chiacchierata parlando dei fatti di Genova, di partendo da Napoli nel marzo del 2001, arrivando a Genova sempre nel 2001, insomma, raccontando un po' quelle che poi saranno i due processi di Cassazione che ci saranno fra poco, quello della settimana prossima nei confronti del Ruzione alla Diaz e poi quello contro le compagne e compagni per devastazione e saccheggio. Questo libro ha la sua introduzione parte da Genova. Parte da Genova e da che punto di vista la analizza? Ma da un punto di vista puramente della repressione e di tutte le conseguenze giuridiche che abbiamo avuto e alle quali assistiamo ancora oggi. Volevo, scusate, ricordare che il 21 giugno c'è la Cassazione anche per Aldrovandi, Federico. Pronto? Sì, ci sono. Ok, dici un po', insomma, che cosa racconta un po' il tuo libro. Parla della violenza, sì, appunto, della polizia nei confronti. Prendo spunto dalla violenza di piazza e dal modo in cui questa è entrata nelle aule giudiziarie. Ho raccolto 23 casi a partire da Federico Aldrovandi, più altri anche meno conosciuti, analizzandoli dal punto di vista giuridico. Basandomi principalmente sugli atti giudiziari, dai quali emerge chiaramente come la volontà di andare a fondo in questi eventi, quando ci sono di mezzo responsabilità delle forze dell'ordine, la volontà insomma manchi completamente. Quindi il ruolo ricoperto in questi casi non si ferma a quello delle forze dell'ordine, ma si evidenzia un sistema strutturato di connivenze tra ordine pubblico e magistratura e giustizia italiana. Senti, io purtroppo il libro non l'ho letto, mi parlavano che nel libro tu analizzi 23 casi, ma in realtà ci sono dei numeri ben precisi su quanti invece? No, sono... assolutamente, io ho messo solo quelli prima di tutto quelli i cui familiari mi hanno autorizzato. Alcuni casi non ho potuto dimettere perché, per esempio, come nel caso di molti immigrati nordafricani uccisi, tipo Amiri, Ben Ali alla Spezia, non è possibile reperire i parenti, o perché non ci sono in Italia o perché sono morti. Quindi 23, perché è stato possibile mettere solo questi, comunque i numeri sono molto più alti, diventano ancora più alti se si considerano i morti in carcere, perché la maggior, pur essendoci una sezione dedicata alle morti in carcere, la maggior parte dell'attenzione l'ho focalizzata sui morti nelle questure e nelle caserme. Senti, qual è un po' la tua conclusione su questo? La conclusione è che in realtà non è un libro a tesi, quindi non è che propongo una soluzione, io ho proposto una prospettiva inedita, perché spesso questi, non so quanti inediti, però spesso ci si ferma solo a scandalizzarsi di fronte alla violenza, ma non si analizza il fatto di come queste violenze vengono coperte. La conclusione è che le leggi in realtà esistono, esistono margini di punibilità per questi elementi. Il fatto è che dipende tutta dalla discrezione dei pubblici ministeri e dei giudici applicare o meno queste leggi, e dipende anche dalla capacità e dall'attività con cui poliziotti e carabinieri riescono a coprirsi per spirito di corpo e senso di impunità. E diciamo, nel senso che la tua sensazione potrebbe anche essere, cioè la cosa che un po' volevo capire, se secondo te cioè queste morti, queste uccisioni, poi la polizia in qualche maniera le dichiara come casuali, oppure secondo te hai potuto riscontrare che c'è comunque all'interno delle forze dell'ordine una preparazione, un intento sulla gestione anche qui, diciamo, della devianza, piuttosto posso pensare alla persona che non sta alle regole, che ha e via dicendo, insomma. Sì, sembra che la sensazione che ho è che la devianza, l'unico modo che loro abbiano per gestire la devianza, ma per devianza intendiamo delinquenza comune o comunque situazioni di vita marginali, l'unico modo che conoscono per gestire queste situazioni sia la repressione violenta e l'abuso, perché c'è scarsa preparazione, non c'è capacità da parte loro di relazionarsi al disagio sociale, quindi non è solo una questione di piazza, ma è una funzione che si evidenzia da parte delle forze dell'ordine di separazione tra i strati alti della società e quelli tra virgolette bassi. Sembra che le forze dell'ordine molto spesso funzionino da cordone protettivo, quasi di isolamento, proprio per questa sete di sicurezza che le classi borghesi, la cosiddetta gente per bene, questa sete che hanno di sicurezza, di essere protetti da persone percepite come pericolose, drogati, spacciatori, eccetera, eccetera. E in questo tu ci hai trovato anche, non so, una connotazione politica. Mi viene in mente che a Genova, comunque anche a Napoli, mentre le forze dell'ordine picchiavano, ma lo stesso uccisione di Carlo Giuliano, insomma, degli epiteti, delle parole ben precise venivano pronunciate alle forze dell'ordine. Penso a comunista, penso a zecca, penso a drogato, penso a immigrato. La connotazione politica è evidente, si spiega benissimo con un esempio. Per esempio, nel caso Uva, che sto seguendo molto da vicino, quando Giuseppe Uva venne portato in caserma e il suo amico Alberto Bigiogero venne rinchiuso in uno stanzino, da dove sentì il pestaggio, sentì, non vide, ma lo sentì per bene il pestaggio e danni di Giuseppe Uva, ogni tanto si affacciava qualche poliziotto nello stanzino, diceva: dopo tocca a te, comunista di merda. Questo è il primo esempio che mi viene in mente, ma ce ne sono tanti altri. Sì, beh, evidentemente una connotazione politica, e ne discutevamo anche con Checchino Antonini, che mi ha aiutato nella prefazione del libro, c'è una lettura anche in chiave neoliberista di tutto ciò, perché la corsa neoliberista crea spazi di esclusione sociale ed è su quei spazi di esclusione sociale che la repressione viene agita più che nei confronti di altri. Ciao Adriano, allora volevo anche dirti che mi sembrava che emergessero anche altri due aspetti. Uno è quello a cui abbiamo accennato prima mentre parlavamo qui in trasmissione della Diaz, ovvero il declassamento di persone a cose, no? Verso le quali quindi puoi fare quello che vuoi, e poi una certezza di impunità. Sì, è chiaro, è evidente, la certezza di impunità, ripeto, è garantita non solo dalla sicurezza di poter godere di coperture da parte degli stessi colleghi, per non parlare dei funzionari, ma l'impunità, la certezza dell'impunità è garantita da quella procura, da quel magistrato della città in cui si opera, col quale il poliziotto lavora a stretto contatto ogni giorno. Mi spiego meglio: se il magistrato X ha bisogno del funzionario Y per portare avanti certe indagini, quel funzionario si trova coinvolto in un caso di mala polizia, diventa una situazione delicata, diventa difficile far saltare quel rapporto attraverso una punizione, un processo. Insomma, sono equilibri questi che non è molto facile interrompere. No, lo stesso titolo, insomma, in cui non è mela marcia ma è mala polizia, insomma. Non è mela marcia, perché la retorica delle mele marce dovrebbe, insomma, stiamo cercando di intaccarle, quasi ci stiamo facendo, perché è stato dimostrato che intorno alla mela marcia c'è un sistema, c'è un cesto, un bosco di marciume, spesso e volentieri. Va bene, Adriano, noi ti salutiamo e ci vediamo, insomma, questo pomeriggio. Grazie. Ciao. Allora, noi ricordiamo, verrà presentato questo libro questa sera alle 18.30 al Centro Sociale Aura e Marco, che si trova a Spinaceto, a Viale Caduti della Guerra di Liberazione 268, e parteciperanno, oltre appunto all'autore Adriano che abbiamo sentito, Giuliano Giuliani, il papà di Carlo, militantà, Simonetta Crisci, avvocato, Paolo Cento, delle compagni di Radio Onda Rossa, l'Associazione Antigone e Paolo Perrini dell'Arci Solidarietà. Allora, Francesco, avvocato. Volevi dire qualcosa su questo? No, intanto è sicuramente un lavoro encomiabile, perché mettere a nudo quello che accade in una struttura come nelle strutture che rappresentano gli apparati di sicurezza è importantissimo per la salvaguardia dei diritti civili delle persone, soprattutto, come dire, per il clima di democrazia che tutti ci auspichiamo. Detto questo, quello che mi colpisce è che anche l'autore, insomma, sembra vittima del luogo comune. Dico un altro paradosso, come alcuni di quelli di cui abbiamo parlato prima. Dice: gli appartenenti alle forze di polizia hanno la certezza dell'impunità perché si coprono con lo spirito di corpo. Ecco, fossimo in Sicilia o in Calabria parleremmo di omertà di appartenenti ad associazioni criminali, però siccome parliamo di un corpo dello Stato, allora possiamo dire, diciamo, utilizziamo un'espressione che è quella dello spirito di corpo, che altro non è, mutatis mutandis, che l'omertà di mafiosi e 'ndranghetisti. Questo per dire, intanto, come a volte anche noi siamo vittime del luogo comune. Ancora, è un dato di fatto che le polizie siano dei corpi che sprigionano violenza, e lo abbiamo visto e lo vediamo quotidianamente. Ma non solo lo sprigionano violenza, ma la incubano, nel senso che questa violenza a volte attecchisce e si sviluppa anche all'interno dei corpi di polizia. E c'è un caso che è venuto alla luce poco tempo fa, ma che adesso evidentemente è calato sotto silenzio, di quello che è accaduto all'interno dei NOX, il nucleo della polizia di certo. Stato che si occupava dei sequestri. Passato forse come un caso di nonnismo? Ma non è un caso, che non è un caso. Quel caso risale a un omicidio. Cioè, nel senso che gli appartenenti di questo gruppo uccisero un loro compagno per errore durante un'operazione di polizia. Immediatamente venne spostato il cadavere, alterate le prove, vennero poi condannate altre persone. Alla fine, dopo un iter tortuoso, si riuscì a scoprire che questo poliziotto era stato ucciso dai propri compagni. Nel frattempo, quei compagni che fecero progressione di carriera e che evidentemente strinsero un patto di omertà in quella sede, diventarono poi gli aguzzini di quelli che stavano sotto di loro e che entravano in questo corpo speciale, in Ox, il gruppo antisequestri. Che dire, tutta questa violenza è sicuramente una testimonianza di un sentire fascista, anche se non, come dire, dichiaratamente politico, perché altro non era il fascismo se non la prevaricazione, la distruzione del corpo del nemico. Insomma, questo anche prendendolo dirlo appunto singolarmente, nel senso che la scelta mi sembra anche di colpire, cioè, insomma, questa cosa, il più indifeso, che in qualche maniera servano di esempio. E d'altro canto, come dire, possiamo anche allargare lo sguardo. Ci è venuto qualche giorno fa da Atene un'analisi dei flussi dei voti e si è avuto modo di sapere che il 50% delle forze di polizia ha votato per i neonazisti di Alba Dorata. Ora, insomma, quindi non è solo un problema nazionale, forse è un problema più generale. Queste forze di sicurezza, queste forze di polizia hanno bisogno di, come dire, di essere pulite a fondo. Ecco, questo è il punto. E forse ci aveva visto giusto molti e molti anni fa Walter Benjamin, che nel suo saggio per la critica della violenza scriveva proprio che i corpi di polizia in un regime democratico possono testimoniare e raggiungere il massimo della degenerazione della violenza. Quello che lui scriveva nel 1921, oggi lo vediamo, come dire, avverarsi del giorno dopo giorno. Sì, c'è una piccola, così, parentesi, che in Grecia, visto che l'hai citato, no, fra l'altro nel programma elettorale di Syriza c'è lo scioglimento dei MAT, che sono queste forze antisommossa, e il disarmo della polizia impegnata in manifestazioni di piazza, insomma, che non siano appunto altro tipo di interventi. Beh, e che il Ministero degli Interni, come lo chiamiamo noi, in Grecia, dopo appunto la caduta della giunta dei colonnelli, è chiamato, non senza un'involontaria ironia, Ministero della Sicurezza del Cittadino. Quindi questo, così, lo volevo ricordare, l'abbiamo detto già altre volte. Beh, sarebbe un grande passo avanti. Noi, è chiaro che il nostro paese è vittima anche, almeno le persone, l'opinione pubblica, è vittima anche di una passivizzazione che ormai è ultra trentennale. Cioè, siamo anestetizzati socialmente. Questo sì, è il disastro. Ricordo che il Partito Comunista, pure tantissimi anni fa, ricordiamo che comunque, da solo per parlare dalla liberazione ad oggi, insomma, e se andiamo intorno agli anni 60, insomma, nelle manifestazioni di piazza venivano ammazzati tranquillamente, sì. E senza assolutamente proprio nessun tipo di motivo, semmai motivo ci può essere per uccidere una persona inerme, insomma, molte persone, certo. Ricordiamo i fatti di Reggio Emilia, certo, o quelli, certo, più recenti di Avola. E che il Partito Comunista chiese per un certo periodo il disarmo delle forze dell'ordine, poi questo nel suo cammino verso le istituzioni, questa cosa poi è scomparsa. Assolutamente il Partito Comunista, al di là delle esternazioni di D'Alema all'indomani dei fatti di Genova, che definì macelleria cilena quello che era successo, poi le cose sono comunque, già lo erano allora, da questo punto di vista assolutamente si sono perse, nessuno più parla di questo tipo di temi. Va bene, io direi che, insomma, possiamo finire qui per ora. Io ricordo degli appuntamenti: insomma, lunedì prossimo inizia questo processo a Piazza Cavour, dove c'è la Cassazione. Martedì è stata indetta per le ore 14 una conferenza stampa appunto per questa campagna che si sta lanciando per sostenere queste compagne e compagne contro il reato di devastazione e saccheggio. E poi in serata ci sarà un'iniziativa qui a San Lorenzo. Mercoledì prossimo alle 20:30, ricordo che la radio continuerà a parlare di questo, continuerà a parlare di Genova, dall'angolazione dei registi che affluirono in massa durante quelle giornate. Mi ricordo, insomma, che poi non se ne fece più niente di quel film, glielo andremo a chiedere. Sì, glielo chiederemo montato, perché chi sarà qui con noi mercoledì sera, Roberto Giannarelli e Vilma Labbate, hanno visionato tutto il materiale perché poi l'hanno montato, quindi insomma è una testimonianza particolarmente importante. Grazie. Per cui rimanete all'ascolto e vi vado a leggere questo appello che è stato scritto, per un appello alla società civile e al mondo della cultura. Genova non è finita, 10 nessuno, 300.000. La gestione dell'ordine pubblico nei giorni del G8 genovese del luglio del 2001 rappresenta una ferita ancora oggi aperta nella storia recente della Repubblica Italiana. 10 anni dopo l'omicidio di Carlo Giuliani, la macelleria messicana avvenuta nella scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto e dalle violenze e dai pestaggi nelle strade genovesi, non solo non sono stati individuati i responsabili, ma chi gestì l'ordine pubblico a Genova ha condotto una brillante carriera, come Gianni De Gennaro, da poco nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Mentre lo Stato assolve se stesso da quella che Amnesty International ha definito la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale, il prossimo 13 luglio 10 persone rischiano di diventare capri espiatori e vedersi confermare in Cassazione una condanna a 100 anni di carcere complessivi in nome di un reato, devastazione e saccheggio, che rappresenta uno dei tanti detriti giuridici figli del codice penale fascista, il cosiddetto codice Rocco. Un reato concepito nel chiaro intento tutto politico di perseguire chi si opponeva al regime fascista. Oggi viene utilizzato ipotizzando anche una compartecipazione psichica, anche quando non sussista associazione vera e propria tra le persone imputate. In questo modo si lascia la completa discrezionalità politica degli inquirenti e dei giudici il compito di decidere se applicarlo o meno. È inaccettabile che a 80 anni di distanza questa aberrazione giuridica rimanga nel nostro ordinamento e venga usata per condannare eventi di piazza così importanti che hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone, come le mobilitazioni contro il G8 a Genova nel 2001. Non possiamo permettere che dopo 10 anni Genova finisca così. Per questo facciamo appello al mondo della cultura, dello spettacolo, ai cittadini, alle cittadine e alla società civile a far sentire la propria voce firmando questo appello che chiede l'annullamento della condanna per devastazione e saccheggio per tutti gli imputati e le imputate. Una battaglia che riguarda la libertà di tutte e tutti. Assemblea di supporto alle 10:10 di Genova 2001. Tutte le firme appunto saranno poi pubblicate sul sito www.10%.it, che ancora non è salito, ma salirà insomma tra, nel senso visibile, tra oggi e domani, per cui insomma chi volesse poi firmare potrà anche mandare una mail, e tutte le informazioni le trovate lì.